3 km di altezza, la velocità era 27.546 km orari, si sta muovendo adesso, aspetta, volevo vedere la posizione, perché ho messo il, quello che vede lei, c'è scritto in diretta, posso vedere quello che sta vedendo lei dalla Terra, cioè dalla, da fuori, dall'orbita, però sto cercando di capire, aspetta un secondo, eccolo qua, allora le 23.06 c'è il picco, allora aspetta a vedere quant'è, passa, aspetta, ormai la visibilità, perché poi c'è il punto di visibilità, ti dice anche quando alle 2.19 dovrebbe passare, 2.19 e 12 secondi di domani passa, allora lunedì passa alle 19.52 e 42 secondi passa, e dura per 3 minuti, meno di 3 minuti, dalle 19.52 alle 19.55, per cui lunedì si può fare, provare a riceverla alle 19.52, se me lo ricordo ci provo, no, alle 8.10, alle 19.52 sono le 8.10, ma stanotte sembrerebbe che, aspetta, che anche stanotte dovrebbe passare alle 00.41, 45 minuti dopo la mezzanotte, per 4 minuti c'è possibilità, però visibilità scarsa, mentre poi ripassa alle 3.55 e va via alle 4.02 e c'è il picco di coso, di luminosità, diciamo il punto migliore, infatti è quasi al massimo, la vediamo. Se ti permette la cosa, non so se ci sono delle nubi che disturbano, alle 3.55 c'è il picco di visibilità stanotte, poi alle 5.32 un po' di meno, poi alle 20.30, domani alle 20.39, passa ogni, quante ore, ogni paio d'ore passa più o meno. Guarda, c'è anche un passaggio alle 23.02 e 55 secondi, il picco massimo è alle 23.06 minuti e la fine è al 23.09. Si potrebbe provare a, adesso non ho tempo di aspettare, a provare a vederla. Naturalmente bisogna sperare che sia abbastanza favorevole come coso, perché noi la vediamo, una cosa è vederla, un'altra cosa è che riusciamo a sentirla. Vabbè, con l'antenna esterna magari già ci si riesce. Ecco. Che avanti. Ciao Robè, non guardare sempre quella modulazione, perché devo sapere che io lo devo controllare. Allora, ho ricablato tutto quel microfono, 2 ore, 3 ore buttato, ho finito, ho dovuto ricostruire tutto. Detto vado e non funziona. Vado a controllare, non c'è nemmeno capsula. Non c'è capsula. Ma tu con cosa stai dicendo, Fabrizio? È tutto Saturn. No, con quel baracchino che devo controllare, con quel jack preso da controllare. Non c'ha neanche capsula col microfono, figurati. Ma mi dite che ho finito adesso, da quando mi è sentito in radio, ho finito adesso di ricablarlo tutto, di rifarlo completamente e non esce. Vado a controllare, ma non sarà che non c'è capsula. Che peccato, quelli ce l'hanno preso in blocco con altre radio, ce ne sono di futti vici, di miserabili, cacchio. Perché esteticamente sembrava bello, l'hai visto, poi si mette, infatti la prima cosa che dico, si stava inviscando un'altra cosa, un altro baracchino e un altro tunnel, ho detto stai attento, che magari ne tolgono le capsule, le utilizzano per altre cose, ne tolgono i circuiti nemici, questa è la controprova. Vabbè, di lì ormai si mette una capsula lì per cercarsi un altro tipo di capsula, di un MB più 4, di un più 5, se si riesce adattare l'impedenza, però è sempre un raffazzonamento. Però Fabri, ti sento malissimo. Lo so, questo apparecchio ha problemi, devo controllarlo, ma non ho tempo. Ok, c'è anche Capri, ti rilascio Capri per Fabrizio. Cioè non senti a Fabrizio tu, Claudio? Vabbè, sta sistemando l'apparato, no, pensavo che non lo sentissi di segnale, ho detto cavolo, Fabrizio arriva a bomba, eia, ok. Cosa volevo dire? Ma c'è qualcun altro forse che voleva entrare? Avanti su 10. Non ve nessuno, dai. Fabrizio, voi inserite la conversazione, se no dimmi tu. No, rimango qua, me ne vado via, no, un po' le palle di latte perché ho sprecato anche tutto il tempo, oggi non ne avevo voglia che ho sino alle 7 e da volte, sono entrato, ho buttato 2 ore e mezzo perché era un casino, il tuo microfono per niente, perché poi dovevo andare a controllare e non c'era nemmeno cazzo, lo vedevo prima ma non avrei nemmeno preso in mano. Mi dispiace cazzo, che non mi è venuto neanche a me in mente, io pensavo fosse solo il figlio, loro mi hanno detto ci sono i fili staccati, invece cacchio la cazzo. Non lo so, vediamo guardare se troviamo qualche microfono andante per dargli, forse loro hanno un tunnel dal palmo, però forse è troppo grande la capsula, no? Così è Fabrizio. Non lo so, solo che il microfono è cablato, poi bisogna provarlo, vedere se va bene, però sembrerebbe cablato e cablato, poi non lo so, nemmeno ho controllato un po' se va a posto, però adesso provo una capsuletta mia, aspetta, ci sentiamo fra un po'. Va bene, ok, grazie da parte di Riccardino, sei stato gentilissimo. Vai Claudio. Fabri, pronto. Eccoci qua, allora ti stavo per far entrare Tino, ho lasciato finire il discorso da Claudio. Aspetta, saluto a Claudio, ciao Claudio, piacere ascoltarti, dai, cerco di romperti le scatole, dai, visto che sai come fare. Ok, vai Tino, avanti. Ehi, buonasera a tutti, no, giusto una curiosità, vabbè. Ehi, dimmi sì. Ma stai usando quella radio là? Sì, ce l'ho aperta, volevo controllare, poi mi sono messo a cambiare un coso, però non credo sia una cosa semplice, ma non riesco nemmeno, devo prima riuscire a trovare gli schemi come si deve, cercare anche capire cosa può essere prima di mettere mano, se no gli metto mano. E ho detto un paio di controlli a qualche taratura, ma è a posto, non lo so cosa può essere, ci devo ragionare. Sì, metti quella freno, come ti ho detto io, in centro. Come? Quello dove c'è scritto meno e più, mettilo in centro, non mi ricordo come cacchio si chiama. Il rit è al centro. E provo a montarlo a più, fatta la pena, eh. Adesso l'ho girato poco poco. Continua. L'ho girato ancora un pochettino. No, provo indietro invece a metà, scusate. Adesso l'ho girato a meno. Vuoi ancora a meno? Adesso sono a meno, meno, il rit è a meno. No, comunque lì il problema, perché credo che sia lì, perché quando è freddo, vabbè, non so se ti ricordi, usciva chiara con la radio, quando scaldava invece andava in saturazione, la radio compressa, non so, prova a giocarti magari col più o meno, proprio andare tutto quanto più. No, ma anche guarda, io adesso faccio un paio di passaggi, non c'entra niente, però ho contratto col frequentimetro ed è centrato, guarda, è in isonda, 1, 2, 3, prova, adesso sto andando verso il meno, adesso sto andando verso il meno, adesso sto rientrando, adesso sono centrato, adesso sto andando verso il più, adesso sto andando verso il più, e adesso sto tornando a posto, adesso sono al centro. A mio parere non ha cambiato niente, confermi Robert? Assolutamente non cambiava niente, ma non è che magari la cosa, la parte, io non sono competente, che non è proprio in AM quell'apparecchio lì, che magari non riesce a commutare la modulazione d'ampiezza. No, io però non l'ho provato, provo a vedere, parla Fabri. Guarda un attimo, io non so nemmeno come compa. Aspetta, faccio una prova, aspetta, se vedo come si fa. 1, 2, 3, prova, PA, squelch, NB volume, Mickey Gain, aspetta, Mickey Gain, ecco, così ho tolto il Mickey Gain perché era schiacciato verso il basso, poi c'ho questo dimmi la luce, il MIP, la scansione, SPAF, look, block, banda. Hai migliorato un po', Fabrico? Sì, anche per me, hai migliorato un pochino. E in FM addirittura fondo scala, però radio non ce n'era. Ma se vanno in FM, guardate in FM. Il Mickey Gain, hai abbassato il Mickey Gain, mi confermo? Sì, una specificato che il Mickey Gain che aumenta e diminuisce. Sai che quando hai abbassato il Mickey Gain hai leggermente migliorato la radio, se non ci sia qualche problema sullo stadio di amplificazione del coso, del microfoni. C'è qualcosa lì, ma becca quando funziona che va in saturazione. Indietro ci sono tarature, ma se mi sono messo tutto accattone ho fatto un paio di controlli e sembra a posto. Aspetta che faccio non una prova con questo è solo, lascio qua, c'è in ascolto. Voglio vedere se almeno esce con una capsula che c'ho io, aspetta. Giusto una dritta, Fabri, con l'apparato lì non devi dare motivate, tieni sempre due tacchette in meno della modulazione, e allora esce una vera un pochino meglio, capito? L'ho abbassato un pochino, però deve esserci qualcosa, non lo so che cosa c'è, così non riesco a ragionarci. È un pochino migliorato, ma non è al 100. Dai, aspetta che stavo facendo una cosa, domani poi ci sentiamo, dai. Ehi, vabbè, ero giusto qua in Corrix, in PC, e ne ho approfittato, Buonasera. Sera buona. Ruia. Sono qua, ma la prematura adesso sono venuto qua. Ecco, lui sporcaccione. Vinces. L'hanno sempre detto comunque che è fatto dalla vista. Ok, ciao Fabrizio, ciao anche a Roberto. Vabbè, riprendo un attimino io, scusa. Beh, prima. No, no, adesso vado via, ci sono anche troppo in radio, sennò anche se domani non si lavora, però bisogna riposare anche le corde vocali, dai, c'era già la gola, mi stava raschiando. Vabbè, già, non ho fatto il tempo a salutarti, cioè faccio il tempo a salutarti perché sono entrando tu e sto andando via io. Saluto anche a Tino, che ho sentito di sfuggita, e saluto anche a Fabrizio, sperando che, non è dubito, riesca a risolvere il problema. Dai, ciao a tutti, buonanotte a tutti, cuoriti da parte mia, ciao ciao. Beh, non aspetta Fabrizio che gli sta mettendo la capa. A provare il microfono. E me lo stava provando con cosa? Con come si chiama? Con Tino? No, ha mollato, sta andando a mettere la capsa per provare se esce. Ma l'apparato credo che sia di Tino, mi lo sta facendo con Tino la prova. No, sta mettendo nel tarn. Nel tarn? No, stava parlando di un'altra radio lui. Allora, la radio che stava provando era mia. Il microfono è uno statico, ma quello lì sta parlando bene, poi non sono riuscito a capire di che capsula stava parlando. Nel microfono che gli ha dato sicuramente Alfa 21, Riccardino, che da comprare senza una capsula, perché Fabrizio tutta la sera andava a Genesi e dopo si è accorto che non c'era capsula. Vabbè, lo sentiremo. Ciao ragazzi, vabbè Robe, se stai andando via ti saluto, dai, buonanotte, ci sentiamo. E dai, mi fate sapere domani, io scappo, dai, ciao ciao di nuovo. Buonanotte, io lo so che stai andando a vederti a Bururi. Sì, mi è una testa di Bururi, tanto mi è poco simpatico. Magari ma dell'altura un po' di più, dai. Ma gli amici sono mangiare diversamente. Avanti, pronto, pronto. Via, va bene, ciao Robe, ciao. Non tanto buoni, ma tanti componenti che ci sono attorno adesso. Aspetta che stanno chiamando un attimino. Sì. Avanti, pronto, pronto. Magari subito, e magari per caliura. Vabbè, ciao Robe, ciao. No, qua non arrivo. Che lo sta facendo? Contento lui. Ce l'ha ancora KP2 se non mi sbaglio, così è. No, no, è andato via, era il figlio. Via. Non so se c'è KP2, sì. No, era il figlio, non era KP2, era chiamato KP2 Roberto perché è venuto dalla stessa stazione. Ah, ti ho arginito così. E allora? Bene, bene, bene. Vabbè, non ho fatto in tempo a salutarla allora, ma pazienza, la prossima. E allora già, tutto a posto? Eh sì, tutto a posto, niente in ordine. Se non si dà di là, a posto non è nulla, ma aspettiamo, sta aspettando la liquidazione. Ah, beh, bene, bene, speriamo bene, allora tante volume. Siamo rientrati, adesso vediamo, anche noi siamo in aspettativa, ma diciamo che la nostra è una cosa un po' più regolare, dai. Dobbiamo aspettare a rientrare nel giro del lavoro vero e proprio, perché ancora, come tu sai, stavo lavorando lì a Matteoce, ma non sappiamo se continuiamo quel lavoro lì o meno, perché c'è un po' di maletta con quell'impresa lì, anche se a quanto so io al mio datore di lavoro l'hanno saldato, però dopo un po' di maletta. Vediamo. Però lo stesso per il contatto con quel lavoro della Teoce, dovremmo fare un altro lavoro in altre parti, capito? Quindi stiamo aspettando un pochino il suo via. Kappa. Vabbè, dai. Lunedì magari già saprete qualcosa, perché stanno riaprendo tutto. E quindi magari si sblocca la situazione. Ma vabbè, io adesso siamo proprio a porre, sai, non è che stiamo facendo giustamente un po' di manutenzione, in quanto sia il capone che Emilio, così almeno siamo già pronti e operativi appena ci danno il via. Nel frattempo stiamo facendo queste cose qua, capito? Un po' di manutenzione giornaliera. Non sarà il nostro. Come? Non sarà il nostro, non sarà quello del tourism market. No, lui ha il capannone lì vicino, come si chiama quel bar che c'era? Non so, dei mari, credo che sia il bar dei due mari, boh, una cosa del genere. Ah sì sì, sì sì, ho capito, il bar resta in croce dei due mari, dai. Diciamo che abbiamo il capannone lì vicino. Ah, cappagatto. No, pensavo che stavate facendo manutenzione a qualche capannone della zona industriale. Ah, no, no, no. Non basta quello che è grandissimo questo capannone qua. Il nostro è 1000 metri quadri. Guarda, questo non lo so, perché non mi sono mai preso la briga di misurarlo, però è grande, grande. Poi anche il nostro è abbastanza grande, dai. Si può dividere anche in due. Oh, infatti una metà l'avevamo affittata, perché non la stavamo usando, e l'altra metà l'abbiamo tenuta per noi, per metterci i pesi vecchi, tutte queste bilance che non servono, tutta roba della pazza. Guarda, anche io quando sono entrato la prima volta in Giumaria, nel buco di Ferrevici, perché ho confidenza, no? Ci conoscevo da ragazzini, sapendo che facevo un determinato lavoro lì, mi ha chiamato, mi ha voluto con lui. Ci conosciamo da ragazzini, ripeto, quindi la confidenza di parlare, di dire, di fare, ce l'abbiamo. Quando sono entrato mi sono spaventato, ho detto no, tu devi fare una cosa, prendere un camion grande, ma un camion grande, di quelli che hai tu, e buttarci un bel di roba. Tu pensi che dentro ha anche due barche grandi, che sono ormai abbandonate perché erano del padre, no? Una addirittura senza motore. Poi ha 3-4 macchine parcheggiate, due camion dentro, e ne ha poco di roba, un'officina tipo, sì, officina che può fare anche gommista di camion, qui ha attrezzatura per togliere le gomme, furnio, e ne ha. Sarà come il mio principale, ci faceva portare frigoriferi che non funzionavano, tutto quanto al capannone. Poi il giorno che si rompeva le scarpe per il marcaggio diceva: io prendete il camion, caricate tutto e portate al ferrovecchio. Cazzo, cominciavamo a caricare roba, adesso una volta siamo sul camion non ce la poteva far portare direttamente, no, li riunia prima. Sì, ma lui conosceva il padre, addirittura avevano preso uno stock di attrezzatura di camion e Iveco che si usavano un tempo, no? I camion, non so se hai conosciuto tu i 330 Iveco, perché in cantiere si usavano molto quelli, no? Quindi ha un sacco di roba, di pezze, di cofani, di una cosa che oggi sinceramente non credo che ce ne siano quasi più, dai, di quei 330 lì che vedevano prima. Un pacchetto quando ci butta il ferrovecchio, boh. Infatti adesso però devi pagare, prima ti pagava, adesso devi pagare tu per la pazzina. Non lo so questo, per quanto riguarda il ferrovecchio non lo so, qualcosina credo che te la diano ancora, non so quanto sia, boh. Poi non te lo pagano nulla. Via. Prendiamo un po', Fabrizio, sì. Sì, mi stavo spegnendo tutto. Niente, ho provato con la capsula, cioè stavo cercando una capsula da stare, ma non ho visto movimenti. Secondo me è proprio bugia. Già, come ho detto così, a spam sembrerebbe il circuito a posto, poi ho ricollegato tutto come va collegato, ma prima che mancavano solo i fili, mancavano tutti i fili completamente dentro, non solo i collegamenti del microfono. E quindi potenziometri, ho ricollegato tutto come deve essere collegato, quindi già bisogna vedere se funziona il microfono, lui già, e ne potrei anche dubitare. E in più magari bisogna già vedere la capsula, non ha nemmeno capsula, vedi tu. Ma che capsula monta, piccole sono le capsule? Il Darnell Super Sideri, che è questo, volevo vedere un attimino, però poi alla fine un macello, secondo me già ho sbagliato a mettergli mano, ma tu. Sì, è proprio quello, cazzo, che c'ha di buono, se tu consideri che la capsula, cazzo, e ti fa uscire con una voce bella calda, bellissimo col microfono. Tale VT, Duda, l'ha comprato su internet, cazzo, ti l'hanno mai detto quanto mi ha messo. Io non mi ho mai esagerato, non c'era capsula, è tutto scollegato dentro. Lo so, da fastidio, Fabio. poi si trova l'asi tra valle e NCC, poi dopo non funziona. Io l'altro giorno ero con un microfono così, tutta la sera, tutto smontato, fatto, poi se va a provarlo, innescato, non rismonto. Preso alla fine, gli ho cambiato la capsula, ho trovato la capsula e ho trovato quella giusta, ne avevo un po' di capsula, ho trovato quella giusta che va bene, adesso è un buon po'. Ah, buona, mi ci vede dal letto, non so come vale la pena nemmeno stare lì ancora per 10 tempo, secondo me. Ti chiude e te lo metti qua sopra mobile. Purtroppo, se non si torna la capsula buona. Ho letto che doveva stare presto, dai. Poi mi da vedere anche se una volta monti la capsula, lui va, perché se monti la capsula non va, la devi riprendere in mano e ricontrollare il motivo perché non va, se c'è anche qualche cosa lì, ma non so, bisogna ricontrollare i collegamenti, poi se non c'è qualche piccolo errore, però già se non è la capsula cosa provi? Ah beh, quello sì, ci potevi stare sino a Roma. Per carità, andiamo, dai, buonanotte a tutti, ciao Tino, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Avanti. Ciao Fabri, ciao, ci aggiorniamo. Buonanotte. È così, va bene. Cazzo, ti avvisami quando va via. Fabri stava parlando a voce bassa, ha alzato il volume, sono in cuffia. Questo è proprio da tutto per cuffia durare. Anzi, sto parlando tranquillo, modulazione da salotto. Sì, sì, se chi da salotto, allora quella è la battaglia conosce. Brecchio da break. Registrato break. Questo è confronto all'altra, credo che sia un pochino più da salotto, non è che questa magari è un po' più. Sì, c'era un'amplificazione, però l'altra è un pochino più aggressiva, credo, e poi no, è un po' più spinta, boh, non so. Va bene, fai entrare il break, vai Gianni. Sì, avanti break. Tocca a Fabio e Bracco, Fabrizio c'è, Fabio dimmi se sei in frequenza. Fabrizio è andato via adesso. Mannaggia, devo parlare di roba importante proprio in questo momento addirittura. E voi due mi arrivate a bomba, perché in paragone a Fabrizio, insomma, parlava quasi piano, il segnale era buono, però la voce era molto bassa. Quindi ditemi chi siete. Io sono Gianni Doppio Ruffo, sono in compagnia con Tino Muscolo, va. È così, sto cercando a Roberto se non sbaglio. Capito, chi sei? Tino. Ma forse non sbaglio. Non ho capito, piano, parlate piano che la svolta miseria. Ma sto scendo le radio. Allora, io sono Tino. Buonasera. No, Tino, ecco, me ne sono vecchio un po' sordo. Praticamente siete rimasti in due solo, là. Tino e Doppio Ruda. Esatto, se ci sei anche tu siamo in tre. Sarebbe l'altro. Mi siete sopramodulati, ma sei. Sei l'amico di come si chiama per caso? Da muro. E guarda che ti diceva bomba, non è che. Da muro, mentre l'altra sera non ti copiavo quasi per nulla. Ok, fai girare, dai. Cosa c'hai Gianni, cosa c'hai? Ti abbiamo chiamato per vedere se ci sei, invece non c'è risposta. Facciamo capire, ti ho mandato i saluti poc'anzi, con la speranza che entravi, tanto lo sapevo che eri all'ascolto, perché ha mollato tuo figlio, quindi hai trovato sicuramente, però non ho forzato, dai. Va bene, ciao già, ciao. Avanti Bracco. Adesso facendo una roba un attimo, continuate. Va bene, è così, nabbo già. Io ero PC, stavo smanettando qua. Poi oggi abbiamo fatto, abbiamo dato con Fabrizio, ok? Paga, anche io oggi già mi sono dato da fare, là. Stamattina mi sono pulito tutte le gabbie di uccidi, tutto gatto, tutto bollito, tutto sistemato, disinfettato, fatto. E io ne ho tre da pulire, e una è grande, grande, brutta. No, io invece, vabbè, oggi non l'ho fatto io. Mi dedico a pulire le caviette, che ho, adesso ne ho madre e figlio, me ne ho fatto solo uno perché gli altri li ho venduti, addirittura ieri l'ho venduta è venuta la seconda, avevo 3:10:30 a prendersela, perché guarda, se ti interessa vieni subito, perché sono con la mattina alle 8:30 io sto andando tutto quanto alla casa di mia madre, perché non mi interessa più avere i figli, perché sembra così, ma tu ce l'hai avute, è un costo che ogni giorno devi pulire, quindi ci vuole la segatura, una roba da mangiare, insomma, la paglia, tutto quanto, poi manutenzione, insomma, la pulizia in generale la devi fare, quindi, e questa mi ha chiamato, ha detto, no, guarda, se non ti disturbo, le 10:30, venga, ho detto, aspetta un attimino, però stavo mangiando, avevo cucciato un paio di latte con la famiglia, però se vieni un pochino più tardi, perché sto ancora mangiando. E quanto ne stai dando? 20 latte. Sì, così bene, nada. Tanto per prenderti solo dal mangino, ne manco pure. Sì, ma infatti effettivamente, poi guarda, me ne è rimasta, io le ho consigliato perché ne ho una completamente bianca, adesso non so se è maschio o femmina, perché vabbè, ha fatto un mese e 5 giorni, adesso mi ricordo, è completamente bianco, e sono rare, capito, non so così, infatti la casa della madre, ma tu non è bianca, sì, ma la porti, e ho detto, vabbè, però quella è 20 euro, non so, cioè, me la volevo pagare a 10 questa qua, se una cosa in più me la devi dare, se no non te la devo, ho detto, vediamo, dai. Ma quello della strada di Alghe? No, quello l'ho chiamato, quello che mi hai detto tu, l'ho chiamato, però non ne voleva, anzi addirittura ne aveva, quindi questa che c'è qua a Pedaneta, alla fine della, vicino alla rotatoria sulla destra, vicino alla Renault, quella c'è lì. Vestis, 4 zampe. Sì, bravo, quella lì. Com'è quella, mi voleva fare un buono per comprare il mangime, quindi non me le voleva dare. Anche a me, infatti mettono, no, facciamo mettere, ma scusa, se io me la voglio disfare, cosa mi dai mangime? Non è così che funziona, io te lo domando perché le voglio fare fuori. A tutte le puoi dare, no? No, ma le voglio te, guai, se le do tutti i miei figli, non ho i figli, basta, perché metteremo il maschio alla fine e basta. Ma quelle che c'è tu non sono pelose, quelle che c'è voi erano pelose, c'erano, cioè, non è quello che toccava in terra, un bel lungo. E mi erano proprio quella pelo lungo. Le davo 20 euro lo stesso, si valevano anche di più, ma solo che non te ne pagano di più. Io all'inizio ho dato 15, poi ho visto che 15 era troppo poco, perché non ti compravi manco il mangino. Sì, io sono di quelli col pelo lungo, vabbè, i piccoli non, ancora dove cresce, però il padre e la madre già c'era lungo. C'è stato un break di nuovo, se non sbaglio. Eia, buonasera a tutti, ciao Salvatore. Salvatore, come va? Aspetta, vediamo un attimo, non si fa più conto sul tempo. Ecco qua, lì ci va. Va bene? Mi sentite? Calma, anche bene. Chi non muore si risente. Mi sono messo un'antenna come la tua. E vai, la Game Master? Calma. Bravissimo. Io stavo proprio guardando stasera e per i pezzi di ricambio. Ho già. A te è arrivata, va bene, nuova e non hai avuto problemi, giusto? No, assolutamente. Non posso soltare, ciao Salvatore, siamo un po' senza sentirci. Ehi, a chi sei? Gianfranco la scimmia. Ciao Gianfranco, ehi. Annetto. Sì, lo so, buonasera. Tino, ciao. Che scemo. No, perché con Gianfranco effettivamente sono anni. No, sto andando con il tipolo che avevo fatto per i 10 mesi. Vai bene. Qua sei 9:10, dai. A voglia. E sul terrazzino, Sul terrazzino. Queste sono le mie attuali possibilità. Sono un dipolo per i 10, uno per i 20, grosso modo riesco ad arrivare ai 20. Poi c'ho quello, un loop sull'attrito solare per i 40 e non posso fare altro. dovrebbe iniziare anche i lavori finalmente, chissà che. Ti dicevo già, no, io stavo guardando per i pezzi di ricambio della mia, della mia Game Master, perché l'avevo culminato. Ah, beh, lo trovo per fare un tipo, lo puoi mettere in una canna da pesca, non la stessa cosa. Sì, però è la parte centrale che ho bruciato, capito? Ah, vabbè, ho capito, ci manca il capo brucio, come è fatto a bruciare? Boh, non lo so, o uno sbalzo di potenza, o... Boh, non lo so, proprio non so. Esatto, linea Roni, ma non ricordo, sinceramente non ricordo... Allora, il discorso è questo, l'antenna la danno per 500 watt in CW massimo, ok, però a quanto pare già 200 watt quella inizia ad essere al limite, e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo se vuoi andare già al limite dei 200, quindi tu immagina. Morale della favola, era proprio bruciato, era incorso completamente all'interno il filo, hai visto come è montato, che sostanzialmente è un dipolo in verticale. Sì, sì, poi si unisce uno con l'altro con un jack, dai. Sì, sì, non so com'è. Ma tu come l'hai messa dentro? In tira era. Cioè? La parte centrale l'hai messa in tira oppure l'hai messa molle, diciamo, che stava molle? Era blanda, era, si rimaneva blanda, sì. No, perché loro dicono di lasciarla un po' blanda, come dici tu, perché come c'è il vento praticamente se la tira. Ehi, ma hai visto quanto è blanda? Cioè, nel mio caso ho visto che ritornava indietro forse di buoni di 6-7 centimetri. Io l'ho messa un po' in tira, dico la verità, l'ho messa un po' in tira e non l'avevo letto quella parte, no, veramente se non l'avevo letto, perché la stavamo piazzando in due e chi la stava piazzando l'aveva già piazzato un'altra, quindi mi sono fidato, però adesso ho letto che bisognava lasciarla un po' plena, diciamo, non proprio in tira. Eia, fermo restando questo, però la mia era proprio bruciata, cioè era proprio affiammato di brutto, e quindi c'era quell'attacco, c'è anche un condensatore, mi sembra, cosa cavolo è quella cosa. Comunque bruciata, e questo ormai già da diversi anni. E avevo mandato una mail tempo fa, mi avevano detto che mi dovevo rivolgere a un rivenditore, non a loro direttamente, ma non avevo poi trovato un rivenditore che mi fornisse quella parte di ricambio. Ma però lo stanno autocostruendo adesso con le antenne lì, quindi metterci un cavo all'interno della stessa grossetta non fa. No, no. Come no, la stanno facendo, mi l'ha fatta Giulio, l'ha fatta Franco, l'ha fatta un sacco di gente con l'antenna, copiata dalla Game Master. Ma io i valori del condensatore non li conosco, comunque l'attacco che c'è lì, non lo so, era tutto sbagliato, quindi. Quello. Non ce l'hai le spiegazioni con tutte le cose. Le spiegazioni che bisogna aprire il portafoglio e dare la spiegazione di quello che ti chiedono per comprarla nuovo, il cavo interno, ecco, di senso. È quello conosco qualche uno che è pratico. E chi? Ah, e non vuoi sapere neanche spiegazione, eh? Manco manuali legge. Neanche parlare, Sì, però vabbè, dai, si può. C'è anche Luca che le fa la Game Master, poi non so com'è, è in preparazione una per me, adesso vediamo cosa ne esce fuori, soprattutto nel caso se la faccio provare anche. Oh, io siccome ce l'ho, cioè il resto della canna io ce l'ho, c'ho tutto, l'avvolgimento basso, eccetera, eccetera. Quello che voglio è la parte che si è proprio che ha fiammato, quella lì mi interessava avere. Originale, cioè almeno se non funziona posso protestare in fila e dammela nuova. E tra l'altro quando io avevo comprato la Game Master tanti anni fa, mi avevano mandato montato l'antenna e mancava un pezzo, una parte della, dell'antenna. E avevo chiamato la ditta e mi avevano preso il numero della spedizione che io avevo fatto con, non ricordo se l'avevo comprata da Media Globe, forse da Media Globe l'avevo preso, e avevano guardato la parte quindi che mancava e me l'hanno spedita con Corriere Express, onestissimo. Certo, se la comprata nuova io ho pagato €170 con le, diciamo, con le spese di spedizione, costava €150 qualche cosa. Sabato, hai, ti stavo ascoltando adesso, hai un leggero innesco di sottofondo. Possibile. Quando sono con il PTC e le cuffie microfonate. Fammi vedere. I livelli dei microfoni dovrei ritoccare i livelli dei microfoni, che è bello, va un po' meglio. Ti sei abbassato leggermente la radio, però hai una sorta di alternanza, così io ti ascolto. Quindi abbassa quello di radio, sì, qua. Quindi la radio almeno riaumentiamola. Vabbè, io qua sto distribuendo ferriti, adesso non manca, ma abbassa che te ne scano troppo ora. Perché non so neanche quale, vediamo se cos'è questo, vediamo un po' se è questo. Sì, adesso non hai più l'innesco. Ok, perché non so quale sono i due microfoni, quindi è questo qua. Sì, lascia così, lascia. Via, benissimo. Vediamo un pochettino. Oddio. Chi c'è? Tutti, Gianni, c'è qualcun altro? C'era Bracco in quel Rix, se una cosa. Non credo se c'è Capridura ancora. Oh, avvisatemi se c'è qualcun altro, perché io con queste condizioni disgraziate probabilmente non sento la maggior parte degli altri. Aspetta, dai, continuate. Game Master ho messo, ma ce l'ho già tre mesi, lo stavo dicendo a Salvatore perché eravamo da tanto che non si sentiva. Ho detto, se stai sempre ascoltando ti si fanno la reci di bufo, basta mangiare di meno, salva di la bocca. Avanti Salvatore. Io non lo sento, vabbè, ti stavo dicendo KP2 che deve fare un po' di ginnastica, se non ce la fa manco uscire dalla porta. Che deve essere che ha ingrassato un po' con questo coronavirus, tutti i gatti hanno ingrassato. Battiti. Non tocchiamo il tuo tasso, che bisogna fare dei sacrifici anche per mangiare, che lui è, per carità. Guarda, io già non ci crederai, ma non penso anche se Salvatore non ci crederà. Quando sono fermato a noi, no? Mi sono messo in testa di fare almeno mezz'ora di tapirulano qua a casa, e l'ho fatto, non è che non l'ho fatto, per carità. L'ho fatto per due settimane più consecutive, no? Ogni sera. Addirittura mi mettevano anche una busta in nylon per sudare di più, per fare. Beh, ci credete che non ho dimagrito mezzo grammo? Perché poi dopo che fai il tapirulano ti fai l'arrostito, gli arrugrito, non la dica ci va. No, è qua ti blocco, vedi? Allora, in quell'arco di periodo lì, addirittura avevo eliminato sia il pane che la birra, credimi Gianni, e mi concedevo giusto la domenica in famiglia a mangiare qualcosa in più e bermi qualche bottiglia di birra, ma senza esagerare. Però veramente non ho notato cambiamenti, quindi cacchio, stai lì a sudare, a fare, a faticarti e poi io purtroppo Dio, la mia costituzione è grossa di sé, anche mio nonno, mio nonno e mia nonna era costituzione grossa, quindi adesso per il lavoro, mio padre lo stesso, capito? Quindi no, sacrifici, insomma, risultati zero. Salvato, eccolo. Buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao, buonasera anche a te. Riprendi Salvatore, se lo sentite Salvatore Antonio, lo senti? Ciao Antonio, ho sentito solo il Roger, inconfondibile. Almeno ricordo che sei l'unica persona che si dice. E quindi non so se riesci a sentirmi, sono in condizioni veramente critiche, molto critiche. Scusa Salvatore, un attimo, ma dove stai modulando Salvatore? Ehi, la casa, zona del San Francesco, però una V inverted nel terrazzino ho messo. Perché ti dicevo molto basso, comprensibile, radio buono, ma per il segnale diciamo bassissimo. E in quale zona sei? Cappuccini. Addirittura Cappuccini, allora siamo vicinissimi, è strano. Dico Santiago 3 al massimo, dico, vabbè. Comunque fai girare, va. Purtroppo sono così adesso. Ho fatto giusto un dipolino per i 10 metri, una V inverted del terrazzino è attaccato alla parete, sono in condizioni veramente disumane. Mi serve almeno per sentire così un po' la 27, non di più. Quindi mi sentite tutti quanti male. Male e io sento voi filuppini. Scusa un attimo, ma sei OM? Nominativo sai? No, negativo. Salvatore. Ok, fai girare. Vai, Gianni, prego. Ehi, per quanto riguarda la dieta, non c'è bisogno di stare a non mangiare. Deve mangiare poco di tutto. Perlomeno io ho fatto tante diete, fatte dal dietologo, fatte anche dal dietista. Sempre consigliato di mangiare un po' di tutto, a metà mattinata magari ti mangi una frutta oppure un pacco di crack e poi a pranzo così si arrivi meno affamato, capito? Quello che c'è, perché se non mangi tutto il giorno poi a pranzo sei affamato e ti mangi tutto. Anche a me succedeva così. Poi il trucco è mangiare prima la verdura di modo che ti riempie e poi mangi tutto il resto. Sì, già, sì, allora la teoria ce l'ho tutta, quello è poco ma sicuro, è che l'altro che mi manca. Uno come me in cantiere che ha poco tempo, sì, lascia perdere, magari ti fermi due minuti, ti mangi una frutta, ti mangi, però in cantiere purtroppo sei destinato a mangiarti un panino, quindi non è che il pane quindi ce l'hai sempre ogni giorno, anche se lo vorrei eliminare. L'insalata, cioè non è come quando uno mangia a casa che si ferma, si siede, si fa il suo pranzetto così. Da noi è una cosa un po' che fuggi e mangia veloce e riprendi, capito? Questo è per farti capire com'è la mia alimentazione. Quello lo posso fare di sabato e di domenica, ma credo che non risolvo, ecco. Ti porti il pigiantino con la verdura già pronta e mangi la verdura. Io ne ho visto tanti, quelli che fanno gli scavi, che stanno facendo gli scavi per la fibra ottica. Se si mettevano all'ombra, ti fatti in fila, seduti, la marciapiede e cominciava a fare con i pigiantini a mangiare. Sì, cioè, voglio dire, non è che non mangi, ma ce le mangi, però anche se ti porti il pigiantino, non è che ti vuoi regare. L'insalata, l'olio, il sale, quello e quell'altro, ma un po' al volo e non ci vedo più la fame, poi sono fatto le prime. Eia, infatti anche noi oggi, hai visto, eravamo molto veloci, proprio gli avanzi abbiamo preso del giorno prima. Ma bello, hai fatto il finale, capito? E Ma perché? Perché avete osato ulteriormente dopo? No, voglio dire, il finale c'è rimasto un unico pasticcino e se la giocava l'uno e l'altro, quelli che c'erano di fronte. Giusto. Vabbè, queste sono cose belle della vita, vedi? Con queste cose qua ci puoi convivere, no con le cose che stanno succedendo ultimamente. Poi dice che questa cosa potrebbe rimanere anche per sempre, Ma guarda, già, è un discorso un po' particolare. Io sono, vabbè, io ho rispettato la quarantena, giustamente perché avendo figli piccoli e insomma, quando vai a fare la spesa ti devi, però io sono anche un pochino, tra virgolette, scettico, nel senso che ne ho sentito delle cose di crude, magari prendi e ascolti e ti fai i tuoi ragionamenti. Ci sono cose che magari dicono che vogliono fare numero su questo, su questa influenza, chiamiamola così, perché non è niente, proprio un'influenza magari un pochino più grave della solita, però molta gente, ho sentito anche che è morta di altre patologie, l'hanno data come il Covid-19, quindi sono cose che chi lo sa, saranno anche di cirie, tra virgolette, io la butto lì così, però magari potrebbe essere una cosa reale, non lo so. C'è chi dice che è tutto un business per far guadagnare le case farmaceutiche, c'è chi dice che dipende dal 5G, c'è, insomma, ne dicono tante. Ma io penso solo una cosa, che questo virus sia scappato da qualche laboratorio, c'è poco da fare, e stanno girando attorno. Vabbè, questo è appunto che è scappato la mano a qualcuno, questo, però il brutto è che l'hanno tenuto nascosto, ma perlomeno a quanto dicono, per qualche mese, dopodiché hanno dato l'allarme, capito? Ma sì, hanno fatto sì che contaminasse a tutti, vabbè, lasciamo dei fortunati. Tra virgolette, perché a me sinceramente prendo la vita per com'è, non è che oggi domani, oggi ci si, domani non si sa, il problema sono i tuoi componenti familiari che insomma devono ancora crescere, cercare di andare avanti, io penso molto più a loro che a me stesso, per carità, quindi non è che a me non frega niente se un domani o l'altro, quando saranno mi scenderanno anche a me, ma sai, mancando una figura magari paterna alla loro, insomma, devono andare avanti ed è critica la cosa. I bambini hanno bisogno anche del padre, dei genitori, non è che puoi parlare così, cappa cappa, vabbè, avanti, Salvatori. Ma non c'era, che era Capri 2? Io non lo sento. Avanti Capri 2, sei mica adesso. Ah, pure. Via. Non avere un posto dove potermi piangere, niente, no. Fossi comuni e poi mi hanno cominciato a cremare. Facciamo entrare anche Antonello che ha bussato poco fa, ma non ha dato il suo. Antonello. Sì, a quattro, stavo provando l'FM500S per vedere se funziona ancora, questo già funziona, quindi. Già è a posto, ciao Tino, buonasera a tutti quelli che sono qua in ruota. Ciao Pompo. Sì, funziona, voglia. Ah, sì, non ti metto di barre il bip, quanto soldi che ne ho messo. La scheda della Intec, l'ultima che mi era rimasta da un tempo fa, figurati, l'ho recuperata e l'ho pensato in questa baracchina qua. Sì, ma infatti quello non si può eliminare, vero? No, non posso eliminare il bip, purtroppo no. Vabbè. Ce la teniamo. Sì, già va bene. Ok, va bene, dai, rimango all'ascolto, mi sto bevendo una birretta, poi prendo e me ne vado andando, che sono stanco, la verità. Sentiamo al limite domani mattina, là, se entrate. Tanto già sono a casa, non devo fare un tubo. Sì, ce ne approfitto anch'io per me la... No, la burretta no. Un bel bicchiere d'acqua fresco, mi ha rotto la prima della radio, la prendo subito. Fai girare già. Ehi, allora ti sono fatto l'altro parte che fa. Ehi, io sto regolando, ecco qua. Questo lo trovo con il minimo consentito, il massimo consentito della legge. Ok. Poi d'altronde male, mi sto sentendo anche male proprio in audio. Vabbè. Ascolta, si sente sempre rumore di alternata o cose del genere già? Ehi, ma è leggero, leggero, io sono in cuffia e ti sento, la sento, ma è leggera. Non è una cosa stravagante, capito? È un'alternata leggera, leggera. Perché il cavo della il connettore del microfono che poi arriva allo speaker microfonico è proprio attaccato alla carcassa di ferro dell'amplificatore e quindi ne risente perché la massa dell'amplificatore, la carcassa è collegata a massa e quindi probabilmente ne risente. Vabbè, pazienza, queste sono le mie condizioni. Poi figurati, c'ho l'antenna qua a 2 metri e neanche in linea d'aria, quindi... Oh già, ti sei abbassato. Mi sta prendendo la bioccola, vi saluto. Vi do la buonanotte che mi sta addormentando. Mi sta addormentando. Poi via. Vabbè, riprendettino, dai, vi saluto tutti. Vi auguro buonanotte. Ehi, è già, se non quando rientrano eventualmente, se non sono già rientrati, e vi saluto io. Ciao, buonanotte, all'inizio del gruppo. Sì, non sei rientrato. Oh, Antonè, devo salutare a Gianni. Sì, sono rientrato, ma niente, Gianni sta andando via, anche tu capisci, se non sbaglio, così? Ho detto, stai andando via anche tu? Non so già, non so, sacrificio, ci vuole sacrificio perché ci ho provato anche io, non è facile. Sì, qualche anno fa, ma avevo anche qualche annetto in meno, facevo, uscendo dal lavoro a cantiere, facendomi circa 6 chilometri così, passeggiata veloce, in un mese ne ero sceso 10 kg, però poi il problema è un altro, che se non sei continuativo, se la cosa non è continuativa è che io ho smesso e caspita, ne ho perso 10 ma ne ho recuperato 15, quindi insomma è una cosa un po', devi continuare, cercare di mantenere sempre il ritmo, come dice l'amico mio, abituare allo stomaco, giustamente a mangiare sempre meno e molta verdura, però non è il mio caso, io dico la verità, e a me io sono un carnivoro per carità, va bene, dai, PSL, d'accordo, dai, ci si riascolta le prossimine, buonanotte, tante cose belle, dai, per domani, buona domenica e quant'altro, salutami a Gianni, a Claudio, scusami, saluto, riprendi. Ehi, io non lo sento, a capi due, quindi salutoni a tutti quanti, infatti a Gianni gli ho detto di passerò i tuoi saluti e ritieniti salutato. Gianni aveva avuto un abbiocchino e si stava addormentando mentre stava parlando con me, quindi non so, capri due, riesci a sentirmi per caso, prima che tu prova a chiederglielo. Capri due, ci sei ancora? No, non so che ti ha mollato. Perché non ho risposto, no, effettivamente è così. Ma io quando sono rientrato, Salvatore, per dirti la verità, sono caduto nella nave di Morfeo, porca miseria, che mi sono sdraiato un attimino nel divano, mi ha trattenuto sia poco tempo fa, diciamo, sino chiuderemo, sono state le 7:30. Ma a che ora siete andati via? Poco dopo siamo andati via io e Fabrizio? Sì, il tempo di bloccare la cubica, ma abbiamo lasciato 4 bullone così al volo, anche perché voleva tirata su, ma non c'erano i mezzi nella voglia di continuare a farlo. No, aspetta un attimo, non sto dicendo 7:30, ma 7 eravamo ancora lì noi. Quindi siete andati voi, io sono arrivato a casa che erano le 7, siamo andati via alle 6:30 noi. Quindi voi forse un'oretta in più siete stati lì. Sì. Ma magari un'oretta no, però io penso che verso le 7:30 dovremmo quattro qua. Mi sono sbagliato, ma sai cosa vuol dire, quella mezz'oretta, tre quarti d'ora proprio ha bloccato. Questo è. Poi considera che anche il sole che abbiamo preso tutto il pomeriggio, stanca, un po' insomma, si senti bello provato, ti muovi, ti prendi anche la stessa aria di campagna, perché comunque siamo in campagna, ci ha fatto bene perché abbiamo tirato aria sana, che comunque scusami un attimo se vado a vedere una cosa qua in senza missione. Sì, guarda, tranquillo. Chi è? Avanti. Eccomi qui. Sì. Devo chiudere forte e quant'altro perché sono andato a dormire. Sì, anche io mi gira, fra un po'. Non faccio un'altra spazzolata. Cuccia tu, quello per domani a casa. No, io sto ancora facendo un torneo e lo trovo ancora per un bel po'. Per un bel po' perché siamo rimasti 1184 persone. Quindi siamo ancora per un bel po'. Giusto una partitina. Eia, ero uscito un paio di tornei. Questo è che sarà praticamente sono buttati a pesce tutti quanti, perché era un garantito di 8.000 euro, ma il price pool alla fine è arrivato a 11.100 e il costo d'ingresso era 2 euro. Iscritti 6.769, quindi si immagina. Bella storia, bello. Vabbè, ma tu come partecipi? Hai il tuo compagno? Com'è? No, negativo, ti iscrivi, ti fai un account, una carta prepagata avete scritto nel tuo conto, giocatore e poi. Non si gioca in quattro in quel gioco, io non è che sono tanto informato su questo, però so che solitamente lo sono in tanti. No, questo è americano, poker americano, gioca in 9 per tavolo, in 9 è modalità torneo e le carte sono 52 carte. No, stavo confondendo con la classica analisi, ecco perché ti ho detto, non è il compagno, stavo pensando al poker, non ho capito. Vabbè, quindi devo aspettare il tuo turno. Sì, in pratica questa qua, la modalità americana, funziona così, ti vengono date due carte, stessa, e poi ne vengono girate 5 al centro e sono valide per tutti quanti. Le prime, quindi dopo che vengono date le carte si fa un primo giro di puntate, quindi senza avere ancora carte sul tavolo. Quelli che accettano e che quindi decidono di proseguire puntano e vengono girate le prime tre carte al centro del tavolo, si fa un nuovo giro di puntate, poi si gira un'altra nuova carta, si mette sul tavolo, altro giro di puntate, e poi alla fine si arriva a mettere la quinta tavola con l'ultimo giro di puntate. Vabbè, ho capito. Bella cosa, solo ci devi stare attento quando buttare le tue prime due carte praticamente, così. Queste, sì. No, poi devi aiuti con dei software operativi, che fanno l'analisi delle mani, perché la differenza tra rispetto al poker, insomma, l'italiana, sulla 5 carte, per intenderci, è che il poker all'italiana non è mai esistita la modalità torneo, no? Per cui qua che cosa ti fai? Tu fai una tassa di iscrizione che va da 50 centesimi fino a da lì. In questo caso il costo è 2 euro e la possibilità di concorrere anche per molti premi, in questo caso anche se erano 8.000 euro garantiti.